Cerco nello specchio fra i vapori della doccia la mia faccia. Con gesti lenti e attenti ho paura di scoprire sul mio volto i segni di profondi mutamenti, frutto di una vita vissuta intensamente, piena di errori. Prima gli occhi, profondi laghi scuri, capaci di sguardi dolci o assai duri, attenti a quel che attorno accade, per cogliere i colori della vita affinché non passi senza averla capita. A volte bianche, altre volte rosso fuoco, come arance, di pugni certo, ne hanno prese, che non fanno più male di quelle offese, recate loro da chi non sa amare, perché un sorriso sapevano portare. Il sorriso, l'arma tagliente, tira del bravo o del deficiente, con una facilità da far spavento, e questo in verità mi fa contento. Le mie labbra di cose giuste ne hanno dette, certo non tutte erano perfette, ma se non hai il coraggio di parlare, come puoi dire agli altri, devi cambiare. La fronte troppo presto spoglia, come agri d'autunno senza foglia, ma se è vero che sopra non c'è niente, stai tranquillo, dentro c'è. Tolto via quel velo che come ruggine copriva quel che di vero c'era sotto, facendomi sentire a volte soddisfatto. Ma che sia bella oppure brutta è la mia faccia. E a me sta bene così. Non importa quanto, non importa quanto.